L'appuntamento di stasera è Voci e Suoni, Poesie d'amore e collera, che è un progetto che Susanna Stivali ed io abbiamo realizzato tanto tempo fa, 23 anni fa. Però noi ci conosciamo da molto prima, da quando avevamo 15 anni. Quindi ci siamo arrivati veramente dopo una lunga amicizia e oggi siamo felici per la prima volta di avere insieme a noi anche Alessandro Guis. Una poesia di Pedro Salinas, La voce a te dovuta. Pedro Salinas è un poeta spagnolo nato a Madrid il 27 novembre 1891 e poi è morto a Boston il 4 dicembre 1951. Partecipò attivamente a Madrid al movimento della cosiddetta Generazione 27, che era questo gruppo di giovani intellettuali spagnoli all'interno del quale lui si affermò come poeta di primissimo piano. La voce a te dovuta di Pedro Salinas. Andare non te ne andare, te vayas, non te Continuiamo il nostro percorso poetico con questa poetessa polacca, la Szymborska, nata nel 1923 e morta nel 2012. La Szymborska ha una poesia intellettuale e riflessiva che si interroga sulla condizione esistenziale dell'uomo contemporaneo. E ora ascoltiamo L'odio. Acuta del cecchino. e guarda risoluto al futuro. Lui solo. Passiamo a una grande poetessa che tutti conosciamo, Alda Merini. Allora, per presentare Alda Merini, faccio anche una sorpresa ai miei colleghi, perché non gliel'ho detto. Ho deciso di prendere una sua autobiografia, che vi leggerò, solo che vi leggo. Sono nata a Milano, il 21 marzo 1931, a casa mia, in via Mangone, a Porta Genova. Era una zona nuova ai tempi, di mezze persone, alcune un po' eleganti, altre no. Poi la mia casa è stata distrutta dalle bombe. Noi eravamo sotto nel rifugio durante il coprifuoco. Siamo tornati su e non c'era più niente, solo macerie. Ho aiutato mia madre a partorire mio fratello. Avevo 12 anni. Un bel tradimento da parte dell'Inghilterra, perché noi eravamo a tavola. Tutti, chi faceva i compiti, chi mangiava, arrivano questi bombardieri col fiato pesante e tutto a un tratto, boom, la gente è impazzita, abbiamo perso tutto. Siamo scappati sul primo carro bestiame che abbiamo trovato, tutti ammassati, siamo approdati a Vercelli, ci siamo buttati nelle risaie perché le bombe non scoppiano nell'acqua. Ce ne siamo stati a mollo finché non sono finiti i bombardamenti. Siamo rimasti lì, soli, io, la mia mamma e il piccolino appena nato. Mio padre e mia sorella erano rimasti in giro a Milano a cercare gli altri. Eravamo tutti impazziti. Ho fatto l'ostetrica, per forza, portando alla luce mio fratello. Ce l'ho fatta. Oggi ha 60 anni e sta benissimo. La mamma, invece, ha avuto un'emorragia, hanno dovuto infagottarla insieme al piccolo e portarsi dietro così, con lei che urlava come una matta. A Vercelli ci ha ospitato una zia che aveva un altro zio contadino, ci ha accampati come meglio poteva in un cascinale. Sembrava la Madonna mia madre, faceva un freddo boia, era una specie di stalla, ci siamo rimasti 3 anni. Non andavo a scuola, come facevo ad andarci? Andavo invece a mondare il riso, a cercare le uova per quel bambino piccolino. Badavamo a lui, era tutto fermo, c'era la guerra. Stavo in casa, aiutavo la mamma. Andavo all'oratorio, ero una brava ragazza io. Io sono molto cattolica. La mia parrocchia a Milano era San Vincenzo in Prato. Mi sento cattolica e profondamente moralista, nel senso che sono una persona seria, allevata da genitori serissimi, pesanti e pedanti in fatto di morale. Non lo so se credo in Dio, credo in qualcosa che... credo in un Dio crudele che mi ha creato. Non è essere cattolici questo? Perché Dio non è così? Tutti abbiamo un Dio, un idoletto, ma proprio il Dio specifico che ha creato montagne, fiume, foreste, lo si immagina solo, con la barba, vecchio, un po' cattivo, un Dio crudele che ha creato persone deformi, senza fortuna. Credo nella crudeltà di Dio. Non penso siano idee blasfeme, eh? La Chiesa non mi ha mai condannato, anzi, il mio Magnificat è stato esaltato perché ho presentato una Madonna semplice, com'è davvero lei davanti a questo stupore dell'Annunciazione che non accetta più in fondo, perché lei a San Giuseppe. Io pregavo da bambina, ero sempre in chiesa, sentivo 7, 8, 10 messe al giorno, mi piaceva, però non ci vado più dai tempi del manicomio. Ho trovato una tale falsità nella chiesa allora. In manicomio vedevo le ragazze che venivano stuprate, dicevano loro che erano matte, stuprate anche dai preti. Allora mi sono incazzata davvero, l'ho visto accadere ad altre e non è una mia esperienza. La Chiesa è dura con le donne da sempre, però oggi come sono magre e secchiette le donne. Prima erano belle adipose, sono tornata a Milano quando è finita la guerra, siamo tornati a piedi da Vercelli, solo con un fagotto, poveri, in canna. E ci siamo accampati in un locale praticamente rubato, ho trovato vuoto di uno straccivendolo e ci stavamo in 5. Abbiamo ripescato anche mia sorella che era partita con i fascisti, con i tedeschi. Aveva imparato, si metteva in strada, tirava sulle gomme. I tedeschi andavano in bisipiglio e le regalavano il pane. Si sfamava così, si alzava solo la gonna, era bellissima. In questo stanzone stavamo tutti e cinque accampati con delle reti. Allora sono andata con il primo che mi è capitato perché non ce la facevo più. Avevo 18 anni, dove dormivo, scusate. E così poi l'ho sposato, nel 1953. Era un operaio, è morto nel 1983, un lavoratore, si chiamava Ettore Carniti. Io sono zia del sindacalista Pier Carniti e anche mio marito era sindacalista, un bell'uomo, ho avuto 4 figli da lui. Andavamo a mangiare la minestra da mia madre perché lui non aveva ancora un lavoro. Poi abbiamo preso una panetteria in via Lipari. Non è proprio che facevamo il pane, era solo una rivenditoria. Mi chiamavano la Fornaretta. Ho avuto la mia prima bambina nel 1955, Emanuela. Poi nel 1958 è nata anche Flavia, avevo 36 anni, quando è nata la mia ultima figlia, Simona. E prima ancora era arrivata Barbara. E questa autobiografia è stata pubblicata dalle figlie nel sito dedicato appunto a Alda Merini. E di Alda Merini ora ascoltiamo Ascolta il passo breve delle cose. Ascolta il passo breve delle cose, assai più breve delle tue finestre. Quel respiro che esce dal tuo sguardo chiama un nome immediato, la tua donna. È fatta di ombre, ciclamini, ti chiede il tuo mistero e tu non lo sai dare. Ascolta il passo breve delle cose, assai più breve delle tue finestre, quel respiro che esce dal tuo sguardo. Ascolta il passo breve delle cose. Con le mani sfiori i profili di una lunga serie di segni che si chiamano rime. Sotto, credi, c'è presenza vera di foglie, un incredibile breve delle cose, assai più breve delle tue finestre, quel respiro che esce dal tuo sguardo. immediato è la tua donna, è fatta di ombre e ciclamini, ti chiede il tuo mistero e tu non lo sai dare. Ascolta il passo breve delle cose, ascolta il passo breve delle cose. E la poesia si intitola Per quanto sta in te. Lui è un poeta greco nato ad Alessandria d'Egitto nel 1863, morto ad Alessandria d'Egitto nel 1933. Di cospicua famiglia poi decaduta, trascorre parte della giovinezza in Inghilterra, tornato nella città natale, conduce una vita povera facendo l'impiegato al Ministero dei Lavori Pubblici. Cavafis era uno scettico che fu accusato di attaccare i tradizionali valori della cristianità, del patriottismo e della eterosessualità, anche se non sempre si trovò a suo agio nel ruolo di anticonvenzionale. Pubblicò 154 poesie, ma molte altre sono rimaste incomplete o allo stato di bozza. Scrisse le sue poesie più importanti dopo i 40 anni, Per quanto sta in te. E se non puoi la vita che desideri, cerca almeno questo per quanto sta in te. Non sciuparla nel troppo commercio con la gente, con troppe parole e in un via vai frenetico. Non sciuparla portandola in giro, in balia del quotidiano gioco balordo, degli incontri e degli eventi, fino a farne una stucchevole estranea. E questo è il nostro Cavafis, e adesso ascoltiamo Alessandro Guis in un suo pezzo. Thank you. Letizia Cavalli, che è nata a Todi nel 1947 e che ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie grazie a Elsa Morante. La sua vita letteraria è stata assolutamente proficua e lei è scomparsa il 21 giugno 2022. Ora ascoltiamo Susanna Stefali e Alessandro Guis in Coprimi grandemente. Coprimi grandemente, scioglimi e in me resta, poi fammi restare lenta chiusa, fammi something. continuiamo con Patrizia Cavalli. Se ora tu bussassi alla mia porta, se ora tu bussassi alla mia porta e ti togliessi gli occhiali e io togliessi i miei che sono uguali e poi tu entrassi dentro la mia bocca senza temere baci diseguali e mi dicessi: amore mio, ma che è successo? Sarebbe un pezzo di teatro di successo. Giorgio Caproni, adesso ci siamo. Nato a Livorno il 7 gennaio 1912 e morto a Roma il 22 gennaio 1990. È stato un poeta, critico letterario, traduttore e scrittore italiano, molto amato da Laura Marri, diciamolo. A seguito del diploma magistrale cominciò ad insegnare alle scuole elementari. Nel 1938 si trasferì a Roma, finita la Seconda Guerra Mondiale, scelse definitivamente l'insegnamento come principale professione presso la scuola Crispi di Roma, che è qua dietro ovviamente, felice di vivere fra i ragazzi, continuando nel frattempo a scrivere poesie e racconti, a collaborare a riviste letterarie e a tradurre autori francesi. Scusate, permettetemi, perché io la adoro. Tra l'altro adesso Nina Quarendi ha pubblicato un libro straordinario, bellissimo, che vi consiglio di leggere, che sono i registri di classe di Giorgio Caproni, che erano conservati all'interno dell'archivio della scuola Crispi e che lei ha magistralmente recuperato. E ora arriviamo alla poesia di Caproni. Show. Guardateli alla televisione, magari in luogo di guardare la partita. Sono loro i governanti, le nostre guide, i tutori eletti della nostra vita. Guardateli, ripugnanti, sordidi fautori dell'ordine, il limo del loro animo tinge di pus la sicumera dei lineamenti. Sono ben pasciuti i nostri illibati ministri. Sono i senatori sinistri, i provvidi sindacalisti, lottano per il bene del paese contro i terroristi e la camorra. Loro che dentro sono più tristi dei più tristi eversori. Arrampichini, arrivisti, in nome del popolo arraffano, avanti, sempre avanti, capitali, si fabbricano ville, investono all'estero, mentre auspicano, Dio quanto auspicano, pace e giustizia. Loro, i veri seviziatori della giustizia, in nome sempre, sempre in nome del dollaro e dell'oro. Guardate lì i grandi attori, i guitti, degni tutti dei loro elettori, proteggono i valori in borsa e le istituzioni. Ma cosa si nasconde dietro le invereconde maschere? Il male che dicono di combattere, toglieteceli davanti, per sempre, tutti quanti. Non può mancare una poesia di Amedichi, insomma, una poetessa che io amo molto, perché così ho scelto una sua poesia da musicare. Poetessa statunitense, nata nel 1830 ad Amherst, Massachusetts. Sapete, immagino, insomma, è considerata tra i maggiori lirici moderni, tra gli americani probabilmente insieme a Walt Whitman, è la più grande poetessa. E inizia a scrivere negli anni 50, molto molto prolifica, in realtà però sono pochissime le poesie che furono pubblicate. Muore nel 1886. e molte, quasi tutte sostanzialmente le sue poesie vengono pubblicate postume, una vita apparentemente insignificante, ma in realtà scrisse alcune delle più belle poesie del XIX secolo. La poesia si intitola All the Joys e descrive questo un momento delicatissimo e unico di gioia. Passiamo a Brecht, drammaturgo, poeta e regista tedesco, da noi attori e attrici tanto amato, generale. Thank you. palestinesi, uno è di Al-Zahr Ghassami Al-Qassim, che è stato un poeta e giornalista palestinese con cittadinanza israeliana ed è morto nell'agosto del 2014. Scriveva in arabo, il suo nome è associato alla rivoluzione e alla resistenza del popolo palestinese di Israele, e a seguire invece Fatwa Tukan, che è una poetessa, è stata una poetessa impegnata per la pace, nasce il 1 marzo del 1917 ed è stata una tra le voci più apprezzate della poesia araba. Iniziamo con Al-Zahr Ghassami Al-Qassim, Cammino Fiero. Cammino fiero, cammino a testa alta, porto in mano un ramo d'ulivo e il corpo sulle mie spalle, e cammino, il mio cuore è una luna rossa, il mio cuore è un giardino, pieno di bacche e basilico, le mie labbra sono un cielo, che gronda a volte fuoco, a volte amore. Porto in mano un ramo d'ulivo e il corpo e sulle mie spalle e cammino Continuiamo con Fatwa Tukan, mi basta. Continua. Mi basta morire sulla mia terra, essere sepolta in essa, sciogliermi e svanire nel suo suolo e poi germogliare come un fiore, colto con tenerezza da un bimbo del mio paese. I see trees of green, red roses too. For me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies so blue, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry, I watch them grow, Whoa.